presentata la cosiddetta Bolkestein, che è una direttiva che interessa decine di settori, fra i quali anche le concessioni demaniali. L'Italia non era in linea con questa direttiva e si è stata aperta una procedura di infrazione. Il nostro governo l'ha chiusa, impegnandosi a emanare entro 15 mesi dal dicembre scorso norme per modificare questo utilizzo delle concessioni demaniali. Ecco, noi stiamo preparando queste norme, nessuno del governo vuole punire i cosiddetti bagnini. Noi sappiamo benissimo che il turismo balneare rappresenta una grande fetta del nostro turismo e quindi cercheremo di interpretare le norme europee in modo che sia anzi l'occasione per stabilizzare il settore e per far sì che nel settore si possa investire in modo di offrire le nostre spiagge, i nostri stabilimenti balneari che siano sempre più attraenti per i nostri turisti.